Iran, elezioni, evaporano i riformisti, Egitto, il caso Zaki, altri 14 giorni in carcere. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. We are continuing to follow up. Iran says 50 people have now died from the coronavirus. Patrick Zaki, secondo Amnesty International, è stato interrogato, picchiato e torturato per 17 ore. Welcome back to our place of work. Buona giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, riparte una settimana di racconto su tutto ciò che accade al di fuori dei nostri confini. La squadra, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e oggi in console Valeria Bernardi. I numeri sono sempre gli stessi, ma ve li ricordo: 349-238-6666, che vale per SMS e WhatsApp, vale naturalmente per porre domande, per commentare e criticare, perché no, i temi che tratteremo in questa puntata in Nessun Luogo è Lontano, ricordo le poche semplicissime regole, non ammetto turpiloquio, commenti xenofobi e razzisti o maschilisti. Detto ciò, liberissimi di appunto esprimervi non soltanto al 349-238-6666, ma anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter. I due account da tenere d'occhio se amate cinguettare sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio, che è Giampaz. Oggi vi daremo conto delle elezioni iraniane, importantissime, quelle parlamentari che si sono tenute venerdì scorso, il tutto fra l'altro all'ombra del coronavirus, che, come già era successo per altri stati in cui non vi è esattamente quella che noi in Occidente chiamiamo trasparenza, vi sono discordanza di cifre. E poi torneremo in Egitto per darvi ragguagli sull'odissea giudiziaria di Patrick Zaki, lo studente egiziano che studiava a Bologna. Quando è tornato è stato imprigionato, secondo la sua difesa anche torturato. Sabato c'è stata un'udienza, sono stati rinnovati i termini per la carcerazione preventiva, altre due settimane. Vi faremo sentire voci dal Cairo per capire meglio questa vicenda, come sta evolvendo. Detto ciò, la prima cosa da fare anche in questo primo giorno della settimana è misurare la temperatura. I dossier che stiamo seguendo io e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, innanzitutto il primo ci porta in Nevada. In Nevada we have just put together a multi-generational, multi-racial coalition which is gonna not only win in Nevada, it's gonna sweep this country. La voce dal tono trionfalistico che avete sentito è quella di Bernie Sanders. Ha detto: abbiamo messo insieme una coalizione multigenerazionale e multietnica che non ci ha fatto soltanto vincere in Nevada, ma che travolgerà il paese. Bernie Sanders infatti ha vinto con un margine piuttosto ampio, dobbiamo ammetterlo, le primarie del Partito Democratico che si sono svolte sabato. Pensate, Sanders ha ottenuto il 47% dei voti, Biden 21%, in terza posizione Buttigieg con il 13.7%, mentre la Warren, che pure in televisione aveva sfoderato notevoli abilità oratorie e si era dimostrata una feroce combattente, si è dovuta fermare al 9.6 delle preferenze. Era importante questo appuntamento in Nevada e ha confermato in qualche modo, chiamiamolo, lo stile ecumenico della politica di Bernie Sanders, perché c'era un peso rilevante delle comunità dei Latinos, il 13% degli elettori americani. Intanto, secondo i sondaggi preelettorali che periodicamente vengono pubblicati da vari istituti di sondaggio in collaborazione con i principali network americani, mi preme sottolineare l'ultimo pubblicato dalla CNN. Secondo questo sondaggio il 51% degli elettori ispanici avevano già espresso un sostegno a Sanders. Il prossimo appuntamento è per sabato 29 febbraio, South Carolina, e poi ovviamente ci prepariamo e scaldiamo i muscoli e la voce ovviamente per il Super Tuesday del martedì 3 marzo. Peraltro è arrivato anche il commento di Donald Trump, non poteva mancare, su Twitter, una delle sue piattaforme preferite. E recita testualmente: "Looks like crazy Bernie is doing well in the great state of Nevada." Sembra proprio che il matto Bernie Sanders stia facendo proprio bene nel grande stato del Nevada. Poi ovviamente aggiunge che Biden e Mini Mike Bloomberg, così come lo definisce lui, sono letteralmente evaporati, e finisce con congratulazioni Bernie. Ovviamente aspettiamo il 3 marzo per vedere se questa rinnovata energia che paiono avere i democratici per Bernie Sanders si concretizzerà in una vera e propria nomination per poi andare a novembre, al vero appuntamento presidenziale statunitense. Allora, un altro dossier che stiamo tenendo d'occhio in vista delle elezioni in Israele, che è il 2 marzo, ve lo ricordo, appena prima, il giorno prima del Super Tuesday, è come si sta muovendo Israele in risposta a quelle che sono continue aggressioni militari da parte della Jihad islamica, in particolare il lancio di razzi che arriva dalla striscia di Gaza. Anche quest'oggi ve ne sono stati svariati. Voi sapete che l'altissima tecnologia israeliana e quello scudo particolarmente efficace consente di minimizzare quelli che sono gli effetti dei bombardamenti. Quello che è successo però è, come spesso ci ha abituato il governo di Gerusalemme, è stata l'immediata ritorsione, che è arrivata persino in territorio siriano, perché due combattenti del Jihad sono stati neutralizzati nei pressi di Damasco, e la notizia è stata confermata dalla stessa formazione islamista. Poi però è arrivata la dichiarazione piuttosto bellicosa di Benjamin Netanyahu, che ha detto ad Hamas: cercate di evitare il lancio di razzi, perché se non neutralizzate voi la Jihad islamica, noi spareremo a voi. Sto parlando di una guerra, ha detto testualmente Benjamin Netanyahu, che ha aggiunto: è l'ultima opzione, ma abbiamo preparato qualcosa che non potete nemmeno immaginare. Ovviamente la memoria va al tempo delle ultime operazioni, gli ingressi nella striscia di Gaza come piombo fuso. Detto ciò, non dobbiamo dimenticare l'orizzonte che abbiamo davanti, appunto quel 2 marzo, elezioni importantissime in Israele, praticamente la terza nel giro di pochi mesi. C'è quel delicatissimo equilibrio tra Likud e Partito Bianco e Blu, che, come dire, non riesce a sfornare un governo in grado di reggere il paese. Quindi, dicevo, terzo appuntamento elettorale. Secondo un'autorevole opinione di Haaretz, che è un giornale di sinistra israeliano, l'opzione bellicosa, l'opzione guerra, sarebbe una delle ultime per Benjamin Netanyahu, che in questo momento politicamente l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno è imbarcarsi in una nuova operazione militare. Penultimo dossier che vi sottopongo in questo termometro internazionale: torniamo in Siria, perché vi è stata una nuova offensiva dell'aviazione di Damasco, supportata come sempre dalla copertura aerea russa. A farne le spese sarebbero stati 4 soldati turchi, almeno 4, oltre a un gran numero di mezzi militari distrutti a Khan Safra. Siamo in un'area rurale a sud di Idlib, provincia che sta vivendo un momento drammatico dal punto di vista umanitario. Spulciando sui social abbiamo trovato un video confermato che mostra il momento, e si ode perfettamente l'arrivo di uno dei razzi, il momento, dicevo, dell'attacco dell'aviazione di Damasco. Ascoltate con me. E qua sentite il momento dell'impatto, che ci ricorda ancora una volta come in quella situazione si va a sovrapporre, a stratificare, da un lato una tragica situazione umanitaria, 900.000 almeno gli sfollati, spesso le organizzazioni umanitarie hanno dato l'allarme, dall'altro questo confronto che si fa sempre più serrato tra Ankara e Damasco, e per il momento le telefonate, le relazioni diplomatiche tra la Turchia e la Russia non hanno dato l'esito sperato. Sapete che evidentemente Putin sta cercando in qualche modo, lui che da un lato cerca di tessere relazioni con la Turchia e vendere armi e dall'altro appoggia Damasco, sta cercando di dirimere quello che a tutti gli effetti e nelle ultime settimane si è trasformato in un conflitto nel conflitto. Stanno già arrivando un po' di messaggi al 349-238-6666, però c'è un ultimo dossier. Era un po' che non ne parlavamo. Giù tutto. Libia. Sono passati 38 giorni da quando il generale Haftar ha imposto il blocco della produzione e dell'export di petrolio nel paese. Oggi il ministro degli esteri, Mohamed Siala, ha accusato la comunità internazionale di essere rimasta in silenzio di fronte a questa situazione. La comunità internazionale, ha detto, non vuole che 1 milione di barili di petrolio libico abbassino il prezzo del petrolio ora che la domanda internazionale è bassa. Se questa è la ragione, è inumano. Mentre la redazione sta buttando un occhio anche a quello che è accaduto in Germania, lo avete sentito dal GR, per il momento sarebbero 15 i feriti per quello che ancora ha i contorni assolutamente molto molto fumosi, per cui prima di, come dire, commentare, provare a definire meglio quei contorni, aspettiamo le notizie che arrivino appunto dalla Germania. Un po' di messaggi su quella che è stata l'ennesima tornata dei per i democratici per forgiare quello che sarà lo sfidante di Donald Trump, e c'è qualche ascoltatore che sostiene che al 349-238-6666 che la figura di Bernie Sanders, così polarizzante, il comunista degli Stati Uniti, insomma uomo decisamente di sinistra, così ecumenico, capace di mettere d'accordo la comunità nera, quella latina, insomma così polarizzante e divisivo, possa essere un regalo eccezionale per Donald Trump, perché secondo la maggior parte degli analisti in realtà quello che bisognerebbe fare dal lato democratico è andare ad erodere i voti dei repubblicani, e certamente una figura così decisa, così netta nelle sue posizioni come Bernie Sanders difficilmente potrà farlo. Poi c'è un altro messaggio di un altro ascoltatore, Jacopo, che chiede lumi su quello che è l'inizio della nostra sigla. Lo dico ancora una volta, ogni tanto qualche ascoltatore si stupisce, quel "Welcome back to our pleasant work" è la frase pronunciata da John Bercow dopo l'interruzione dei lavori parlamentari di qualche tempo fa. Vi ricordate quel braccio di ferro sulla Brexit? Lo raccontammo. Boris Johnson, la regina che disse va bene, sospendiamo i lavori parlamentari. Quando i parlamentari inglesi tornarono alla Camera, un emozionato John Bercow appunto accolse i politici con quel "Welcome back to our present work". L'abbiamo preso in qualche modo come l'order finale, l'ordine, come una grammatica, come dire, musicale che ci piace perché rispecchia la passione per il lavoro, la stessa che ci mettiamo tutti i giorni. Ma detto ciò, basta essere autoreferenziali. Dobbiamo parlare di Iran, perché abbiamo sottolineato più volte l'importanza di queste elezioni. In realtà è andato tutto esattamente come gli analisti prevedevano, con qualche colpo di scena non esattamente aspettato, un'epidemia, un focolaio di coronavirus a Qom. Per capire meglio che cosa è andata, Annalisa Perteghella, analista di ISPI. Buongiorno Annalisa, ben ritrovata qui nel suo luogo lontano. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, provo a ricapitolare brevissimamente e lascerò poi spazio a te invece per quella che è l'analisi più stretta, quello che è accaduto. Allora, venerdì 21 settembre si è votato, chi ci ascolta ha sentito un po' di umori, di polso proprio dal terreno iraniano. Il prodromo dei 600.000 nomi presentati come potenziali candidati al Parlamento, il Consiglio dei Guardiani, che è l'organo che fra le altre cose va a dire chi si può candidare meno, ne aveva sostanzialmente depennati la metà. L'affluenza è stata bassissima, 42.57%, cioè la più bassa, pensate, dal 1979, che è una data storica, peraltro recentemente celebrata per l'Iran, la rivoluzione. Sui 290 seggi, 221 sarebbero andati ai conservatori. Annalisa Perteghella, in buona sostanza tutto più o meno come previsto, ma la domanda è: hanno vinto i conservatori o hanno vinto gli astensionisti? Ma diciamo che nel periodo hanno vinto sicuramente i conservatori, anche se mi preme sottolineare che stiamo facendo un po' stiamo usando il termine conservatori come se fossero un fenomeno unito, unitario, un fronte compatto. In realtà non lo sono per nulla, per cui è vero che appunto questi risultati erano attesi, però in realtà si sta ancora aspettando effettivamente di vedere quali conservatori, cioè di che tipo di conservatori stiamo parlando, perché ci sono diverse formazioni che vanno, diciamo, dalle più moderate, potremmo dire, a invece gli ultraradicali, portatori di stanze più oltranziste, per cui insomma lì potrebbero esserci effettivamente delle non sorprese, però insomma cambieranno gli equilibri in base a quali tipo di conservatori effettivamente si sono affermati. Sì. Annalisa Perteghella, analista dell'Istituto degli Studi per la Politica Internazionale, think tank che produce analisi un po' su tutto quello che accade in giro per il mondo. Annalisa è esperta di Iran e ha seguito da vicino anche questo appuntamento elettorale, che è stato segnato a un certo punto dall'esplosione del contagio del coronavirus. In realtà diciamo esplosione, ma come dire, nei giorni durante il voto il regime di Teheran si è ben guardato dal diffondere qualsiasi tipo di notizia, immagino, Annalisa, per evitare un ulteriore astensionismo che avrebbe ancora una volta delegittimato questo voto. Sì, sicuramente c'è stato questo elemento, perché abbiamo visto fino al giorno prima delle elezioni, insomma, la guida suprema, il presidente, tutte le personalità politiche si sono appunto lanciate in appelli al voto prevedendo un'affluenza molto bassa. C'è però anche il dato relativo al fatto che l'Iran è un paese che ha estremamente bisogno della Cina in questo momento, per ovvi motivi, perché essendo sotto sanzioni statunitensi, quindi avendo precluse, diciamo, le vie di accesso all'Occidente, deve fare affidamento sulla Cina, per cui non c'è stata da parte iraniana la volontà di, insomma, alienarsi Pechino, quindi anche se l'epidemia è stata scoperta nei primissimi momenti, comunque non si sono prese misure di cautela come blocco dei voli eccetera eccetera, sì. E questo ovviamente ha fatto sfuggire la situazione di mano, ecco. Sì. Intanto un po' di ascoltatori rettificano, chiedo scusa, io ho detto welcome back to our pleasant work, in realtà welcome back to our place of work, e quindi chiedo scusa del mio lapsus, e grazie invece per gli abbracci che arrivano peraltro da un po' di paesi europei, segno che, come dire, questa visione di nessun luogo va persino appunto all'estero. Ci piace questo aspetto. La voce che avete sentito fino adesso è quella di Annalisa Perteghella, analista ed esperta di Iran per ISPI. Allora, abbiamo sottolineato come l'importanza dell'elezione dei nuovi parlamentari andrà a condizionare evidentemente anche poi le prossime presidenziali e quindi tutta la politica iraniana da qui a venire. Se fosse confermato, ancora dalle tue parole abbiamo capito che, diciamo, ci sono tante nature conservatrici, dobbiamo capire quale esattamente prevarrà in questo Parlamento. Ti aspetti delle modifiche nella politica iraniana, da un lato quella interna, poi magari parliamo di quella estera? Ma sicuramente, adesso insomma manca ancora un anno praticamente alla fine del mandato di Rouhani, e dobbiamo aspettarci un anno in cui il presidente sarà sottoposto a attacchi quotidiani da parte del Parlamento. E appunto l'hai detto molto bene, si va verso una possibile nuova fase conservatrice della politica iraniana nel suo complesso, perché con le elezioni presidenziali del prossimo anno i conservatori proveranno, insomma, a prendere anche la presidenza, e poi oltre ai rami elettivi della Repubblica Islamica c'è in palio anche la posta più alta, che è quella del posto di guida suprema, perché l'Ayatollah Khamenei, attuale guida suprema, sappiamo essere molto anziano, insomma, quindi si prepara anche una sua successione, e il fatto che questa verrà decisa nei prossimi 4-8 anni, che sono i periodi di tempo, diciamo, elettorali in cui dovrà in carica Parlamento e Presidente, se effettivamente dovesse appunto avvenire in questo arco temporale con un equilibrio delle forze a favore dei conservatori, questo vorrebbe dire ipotecare il destino della Repubblica Islamica anche per il futuro, non solo quello relativo a domani e dopodomani, ma molto, certo, più l'anno stesso. Certo, e noi sappiamo che la politica iraniana è legata a doppio filo con l'Occidente per tutta una serie di questioni, in particolare quella statunitense. Il dossier Stati Uniti-Iran è stato uno dei cavalli di battaglia prima di Obama con l'accordo sul nucleare e poi di Trump, che è uscito da quell'accordo. E in proposito, Annalisa, esce una notizia dalle agenzie: il 26 febbraio prossimo si svolgerà a Vienna una nuova riunione della commissione congiunta sull'accordo nucleare iraniano. Ovviamente non partecipano gli Stati Uniti. Qual è il valore di questo nuovo round di consultazioni? Un Iran sempre più isolato, gli Stati Uniti che dicono assolutamente non se ne parla, impongono sanzioni. Vuol dire che l'Europa torna a giocare un ruolo, se è possibile? Come la vedi? Ma questo meeting sarà il primo che si terrà effettivamente dopo che i tre, Francia, Regno Unito e Germania, hanno lanciato il cosiddetto meccanismo di risoluzione delle controversie, che appunto questa procedura prevista dall'accordo sul nucleare per arrivare a chiarire la situazione con l'Iran, e che potrebbe culminare anche in un ripristino totale delle sanzioni anche da parte europea. Questo è stato lanciato a gennaio, dopodiché non si è fatto nulla, adesso appunto ci sarà questo primo incontro. Vediamo cosa succede. In realtà in Europa c'è ancora chiaramente la volontà di preservare l'accordo, mancano però ancora una volta gli strumenti per farlo, e da adesso diventerà, certo, sempre più difficile, perché appunto in Iran cambieranno gli equilibri, e quindi insomma se abbiamo visto già in questi mesi con un governo moderato l'Iran ha preso le misure, insomma, in violazione tra virgolette dell'accordo sul nucleare, aspettiamoci insomma passi ancora più decisi in questa direzione. Sì. Annalisa Perteghella, analista di ISPI. Intanto arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666. C'è chi continua a messaggiare su quella che è l'ultima tornata dei Dem negli Stati Uniti, dicendo che continuamente la tesi un po' è quella da maggior parte degli ascoltatori: Bernie Sanders e la sua candidatura è un po' un regalo a Donald Trump. C'è chi, come Davide, chiede perché continuate a parlare di elezioni iraniane, è una farsa, una presa in giro, c'è un regime teocratico ben peggiore di qualsiasi dittatura. Annalisa Perteghella, aiutami a sottolineare ancora una volta come sì, è un regime, ma vi siano come dire, degli spazi di delle tonalità, ecco, mettiamolo così, come tu sottolineavi appunto le tonalità di grigio tra i conservatori, ci sono anche tra i riformisti. È bene ricordare per esempio che c'è una quota riservata delle minoranze religiose, per esempio tra cui gli ebrei, non viene mai sottolineato abbastanza. Esiste una comunità gigantesca, comunità ebraica in Iran. Aiutami, Annalisa, a restituire la complessità. Il messaggio è piuttosto manicheo e piuttosto acuto nello stessare solo un lato dell'Iran, che è molto più complesso. Sì, esatto, complessità direi che è la parola chiave per provare a capire quello che è l'Iran. È chiaro che ci sono degli spazi di azione per la popolazione che si stanno sempre più restringendo, ahimè, come risultato però, permettimi di dirlo, anche di una politica internazionale. Insomma, le sanzioni di Trump hanno giocato un ruolo non indifferente in questa chiusura del sistema. Sì. Ci sono abbiamo visto, ne abbiamo parlato ampiamente negli scorsi mesi, la popolazione, la società iraniana è molto attiva, è molto forte e non si lascia spaventare, appunto, l'abbiamo visto, per cui io credo che anche questo numero basso, insomma, di persone che si sono recate alle urne rappresenti un segnale potente che a questo punto però sta al regime cogliere oppure ignorare, con le conseguenze però insomma imponderabili. La società civile non può certo essere messa a tacere indefinitamente. Certo, peraltro l'abbiamo visto anche nelle scorse settimane, corpose manifestazioni di piazza, soprattutto per la crisi economica. Hai fatto bene a sottolineare il ruolo della comunità internazionale, Annalisa Perteghella, nel isolare ancora di più l'Iran. È chiaro che noi raccontiamo la grande attualità internazionale e la politica internazionale, poi però dobbiamo ricordare le società civili, le popolazioni che sono guidate da certi governi e che subiscono in questo caso una mossa perentoria di Donald Trump, che ha deciso di stracciare quegli accordi, e un'Europa che prova forse a rimettere in piedi i pezzi. Ultimissima domanda al volo, se riesce a essere telegrafica: c'è un nome su tutti da tenere d'occhio in Iran, Mohammed Bakr Khalibaf, vicino, scrivono le agenzie e i principali quotidiani, vicino ai guardiani della rivoluzione, potrebbe essere il nuovo presidente del Parlamento, ma addirittura qualcuno lo cifra tra un anno candidarsi alla presidenza. Se così fosse, ennesima, come dire, svolta dei conservatori? Sì, esatto, Khalibaf è proprio l'emblema di quello che è la cosiddetta seconda generazione iraniana, ovvero quelli non che hanno fatto la rivoluzione ma che si sono formati al fronte della guerra con l'Iran e sono così, cioè, i militari poi alla fine. Tra l'altro seguendo la stessa parabola di Ahmadinejad, già sindaco, già militare, poi sindaco di Teheran e poi presidente, quindi assolutamente teniamo gli occhi puntati su Khalibaf. Grazie mille, Annalisa Perteghella, esperta di Iran, lavora a ISPI, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro, Annalisa. Grazie a voi. Allora, Valeria Bernardi, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno reagendo le borse a questi tumulti internazionali, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, vi darò conto dei vostri messaggi, dei vostri commenti e poi vi porterò al Cairo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questo lunedì, in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo, abbiamo fatto il punto sulle elezioni in Iran e adesso torniamo a occuparci del caso Zaki. Nelle scorse puntate di Nessun Luogo abbiamo denunciato più volte come sia soltanto la punta di un iceberg, abbiamo messo nel mirino quello che è il regime egiziano, la mancanza di rispetto dei diritti umani, in un silenzio da parte della comunità internazionale che spesso è particolarmente visibile. Fatemi prima rispondere a un paio di messaggi al 349-238-6666 o quantomeno leggerli. Giovanni: l'Iran è un paese ostile all'Occidente dalla presa dell'ambasciata, mai nulla di pacifico, ma che nucleare. Un altro ascoltatore: non esiste in Iran un rappresentante anche nascosto che spinge più sulla democrazia, così Sam. In realtà è così, vi sono anime altamente democratiche gli stessi riformisti. Rouhani è caduto dal punto di vista politico in disgrazia proprio perché si era giocato tantissimo su quell'accordo sul nucleare da cui Trump si è tolto. Vi ricordate le scene di giubilo in tutto l'Iran e a Teheran quando si raggiunse quell'accordo, quando l'economia iraniana iniziò a respirare? Ha fatto bene Annalisa Perteghella a ricordare come l'economia di questo paese sia profondamente legata anche a quelle che sono le mosse della comunità internazionale. Arrivano già i primi messaggi sul caso Zaki, quindi è il caso di andare immediatamente al Cairo. Lo facciamo con Laura Capon, giornalista, freelance, esperta di Egitto. Laura, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio Giampaolo, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, dicevamo nei titoli, è stata sabato prolungata la carcerazione preventiva di altri 15 giorni, custodia cautelare per Patrick Zaki. Nel tribunale di Mansura, che è la sua città natale, dove si era recato, dove poi è stato arrestato, secondo i suoi legali è stato anche torturato. Ci aiuti a fare il punto, Laura Capon? La prima domanda è se è andato tutto come ci si doveva aspettare, cioè sarebbe stato improbabile un rilascio di Patrick George Zaki? Questa è una domanda un po' particolare, perché in realtà più che l'udienza di sabato scorso ci aveva fatto sperare l'udienza di sabato prima, dove per una decisione straordinaria era stato attivato il Tribunale del Riesame per la custodia cautelare, un organismo che in Egitto esiste ma non viene praticamente mai utilizzato, tantomeno per degli arresti contro attivisti politici. Invece, dopo due sabati fa, c'era da aspettarsi il rinnovo della custodia cautelare questo sabato, semplicemente per il fatto che è una prassi utilizzata per gli attivisti politici e soprattutto per fare pressione, perché tenere le persone in carcere senza un rinvio a giudizio è qualcosa che rende inefficace anche il lavoro degli avvocati, perché certo, non c'è una vera e propria formalizzazione dell'accusa. Io sono appena rientrata dalla sede dell'IPR, l'Egyptian Initiative for Personal Rights, sì, che è l'organizzazione dove Patrick lavorava, e ovviamente sono tutti molto indaffarati, stanno cercando di reagire e di trovare, prima di tutto, di correggere quello che è stato fabbricato, come dicono loro stessi, le prove che sono state prodotte per incarcerare Zaki, a partire da questi post su Facebook, sì, che nessuno riesce a capire chi abbia postato quei messaggi, se sono veramente dei post del profilo di Zaki, se invece è un profilo finto che è stato fatto, manipolato, utilizzato procura. Ricordiamoci anche che nel verbale l'arresto di Zaki risulta a Mansura, quando Zaki è stato prelevato dall'aeroporto. All'aeroporto, sì, questo è uno dei primi punti più nevralgici, no, di questa vicenda giudiziaria, che ha tanti aspetti. Ti interrompo, Laura Capon, perché proprio pochi minuti fa hai incontrato anche Hoda Nasrallah, che è l'avvocato a capo della squadra dei difensori di Patrick Zaki. Facciamo sentire la sua voce, perché mette molto bene in luce quelle che sono, come dire, le incoerenze, no, anche del procedimento giudiziario che è stato intentato contro il giovane studente. Ascoltiamo insieme. Le accuse che Patrick Zaki sta affrontando riguardano prima di tutto l'uso dei suoi account social per commettere reati. La seconda consiste nel reato di eversione, di incitazione al rovesciamento dello Stato. E la terza è un'accusa di terrorismo. Per quanto riguarda la questione dell'arresto, abbiamo chiesto all'aeroporto di fornirci i filmati delle telecamere relativi al giorno 7 febbraio e non quelle relative all'8, come viene riportato dai verbali della polizia. Tutte queste, però, sono decisioni del magistrato inquirente. E quando siamo stati nell'ufficio del procuratore sabato scorso, ci è stato detto che il caso è in fase di revisione dei termini di detenzione, ma che la pratica non viene più seguita dalla procura, perché si tratta di un caso riguardante la sicurezza dello Stato, che è giurisdizione di un tribunale speciale. Allora siamo andati a recuperare il fascicolo relativo al caso, ma tutto quello che siamo riusciti a recuperare è il numero del caso e non i contenuti dell'ordinanza contro Zaki. Speriamo di ottenerli non appena inizierà il processo davanti al tribunale speciale. La voce che avete sentito è quella di Hoda Nasrallah, l'avvocatessa capo della squadra che sta difendendo Patrick Zaki, lo studente che peraltro studiava anche all'Università di Bologna. Appena rientrato al Cairo per poi recarsi nella sua città natale, Mansour è stato arrestato. Un po' di messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve li leggerò. Fatemi tornare però al Cairo da Laura Capone, giornalista freelance molto esperta del paese, ha seguito anche il caso Regeni. In qualche modo, Laura, è un copione già visto, no? Ci sono questi gangli giuridici, c'è questa macchina burocratica egiziana che è abilissima nel non far procedere qualsiasi tentativo né di inchiesta né di difesa. Fin qua nulla di nuovo, l'abbiamo visto anche con Regeni. Beh, certo, ricordiamo, io uso sempre come esempio quel famoso faldone di 2000 pagine che la Procura del Cairo inviò alla Procura di Roma qualche anno fa, che venne all'inizio definito persino dalla nostra politica una vera svolta nel caso, invece erano 2000 pagine totalmente contorte, inutili, con degli interrogatori sbagliati o molto sintetici, con le domande sbagliate, con i fogli scritti a mano. Cioè, oltre diciamo alla repressione, la burocrazia estremamente complicata e i tempi estremamente lunghi non fanno assolutamente gioco a chi si deve districare per provare a difendere. Oda non c'è nelle battute, diciamo, che abbiamo ascoltato poco fa, ma mi ha detto una cosa molto particolare. Lei lavora da 13 anni nel campo dei diritti umani, mi fa: ormai con questa repressione siamo diventati quasi dei psicologi, perché oltre al lavoro legale, che è molto difficile da fare, noi dobbiamo aiutare anche psicologicamente le persone, i familiari e noi stessi ad affrontare questi momenti che sono, e sappiamo, diventano lunghissimi e diventano difficilissimi da gestire, proprio a causa anche di questa macchina, di questi gangli, certo, che vengono continuamente, diciamo, utilizzati dal regime per reprimere il dissenso e mettere in difficoltà chi finisce in carcere. Certo, Laura Capone è in diretta dal Cairo, sta seguendo fra le altre cose anche il caso Zaki, è riuscita a sentire anche l'avvocatessa Huda Nasrallah, che è a capo del team di legali che sta cercando di districarsi in quel reticolo benefico che stava descrivendo prima Laura Capone. Io provo a districarmi invece tra i messaggi arrivati al 349-238-6666. Ne ho scelto uno che ha scritto Luca da Brescia: Zaki è un cittadino egiziano, non capisco tutta questa mobilitazione in suo favore. Ha amici potenti o qualcuno lo usa per strumentalizzare delle lotte interne in Italia? Che meriti ha? Perché nessuno si occupa del professor Hafez, condannato a morte in Pakistan per aver insegnato ai suoi allievi i diritti delle donne? Allora, gentile Luca, non mi risulta che vi sia una strumentalizzazione a uso interno italiano. Esiste una rilevanza di questo caso perché avviene dopo un caso totalmente irrisolto, che è quello di un cittadino italiano, che è Giulio Regeni. Avviene la mobilitazione perché tutto l'ambiente universitario si è mobilitato e ha, come dire, ha fatto accendere i riflettori su quella che è una situazione estremamente grave. Terzo punto che mi preme sottolineare, da parte nostra, nessun luogo non vi è alcuna censura di quello che accade in Pakistan, però ci è, come molti analisti hanno sottolineato, molto spesso le relazioni con l'Egitto vengono i diritti, anzi è meglio, il rispetto dei diritti umani in Egitto viene sacrificato sull'altare delle buone relazioni. Il sottosegretario Mallo Di Stefano, vi ricordo che proprio a questi microfoni disse, e dovette ammettere, che dopo un anno dal ripristino dell'ambasciatore italiano al Cairo non si era ottenuto nulla sul caso Regeni. Quindi esiste una gerarchia anche nelle notizie che cerchiamo di rispettare. C'è una sorta di tentativo di normalizzare i rapporti con l'Egitto quando assolutamente non vi è nulla di normale, e anche nelle scorse puntate abbiamo cercato di raccontare appunto il problema della repressione, della assoluta mancanza di risvolti democratici soprattutto negli ultimi tempi. Laura Capone, giornalista freelance esperta di Egitto, lo ricordo, è anche arabofana, ma questo per darvi la dimensione di quanto in profondità può andare. Proviamo a cambiare totalmente argomento. Laura, oggi probabilmente hai girato anche per le strade, ci sono due eventi concomitanti: da un lato l'unico caso in Africa di coronavirus che sarebbe stato trovato in Egitto, e poi però c'è questa sera, non so se ti piace il calcio, ma c'è il derby del Cairo, c'è El Ahly contro Zamalek, e tu mi insegni che gli ultras di El Ahly e Zamalek erano la front line di piazza Tahrir. Leggo delle agenzie grandi dispiegamenti di forze di polizia e particolare attenzione, mi confermi, c'è anche questo aspetto? Sì, io sono appena passato. Mi sa che è caduta la linea con Laura Capone. Proviamo a ristabilirla. L'ascoltatore di prima, adesso per carità non voglio fare un dialogo a due, assolutamente non vorrei svilire gli altri commenti. La strumentalizzazione, dice, sta proprio nel voler costituire un collegamento inesistente tra i casi Regeni e Zaki. Guardi, se si riascolta la puntata che abbiamo fatto sul caso Zaki, era proprio, attenzione, sono due cose diverse. Questo era proprio il prodromo, l'inizio di quella puntata. Non c'è dubbio, detto ciò, che esiste un problema di rispetto dei diritti umani. Un paese che ha profonde relazioni economiche con l'Italia, così vicino, che è stato per un certo momento della storia dell'immigrazione un paese da cui partivano tanti tanti barconi, insomma c'è un filo rosso che evidentemente va raccontato, ma va anche criticato quando ci sono delle nevralgie. Io direi, facciamo una piccola pausa mentre il telefono scotta per raggiungere di nuovo Laura Capone al Cairo, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, ancora buon lunedì da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Nella seconda pagina, dopo aver parlato nella prima di Iran, elezioni iraniane, aver fatto il punto, adesso siamo tornati sul caso Zaki, lo studente che era anche studente dell'Università di Bologna, torna in Egitto, viene arrestato, secondo la difesa viene torturato, prorogati i termini della custodia cautelare, il tutto in mezzo a una serie di gangli giuridici tipici del regime egiziano. Ce ne siamo occupati anche parzialmente nel caso Regeni e sembra di vivere esattamente la stessa storia. I casi sono assolutamente diversi, vale la pena ribadirlo, come già facemmo, da un lato un cittadino italiano, dall'altro un cittadino egiziano, ma detto ciò esiste un fattore comune. Il fattore comune è che il regime di Al-Sisi negli ultimi anni sta attuando una politica particolarmente repressiva nei confronti di qualsiasi tipo di dissidenza. Non soltanto, ci sono dei campanelli di allarme che sono sicuramente le istanze democratiche, altri campanelli, sembrerà strano, ma sono quelli sportivi, soprattutto quando si gioca un derby di calcio come El Ahly Zamalek. Per chi segue il calcio egiziano, che nel mondo africano è un calcio particolarmente seguito, sono due squadre molto seguite appunto dai vari supporter e tifosi del Cairo, e molti degli ultras di queste due squadre erano nel 2011 quella che era la front line di Piazza Tahrir. Perché? Perché i tifosi di calcio sono particolarmente disciplinati, organizzati e hanno, per così dire, un certo antagonismo verso le forze dell'ordine. Da ciò, e torno da Laura Capone al Cairo, dicevamo, grande dispiegamento di forze. Laura. Sì, assolutamente, ci sono stati già diversi problemi, ricordiamo solo nel 2012, un anno dopo la rivoluzione, cosa è successo nello stadio di Port Said, dove più di 60 tifosi dell'Al-Ahly, che facendo diciamo un paragone alla Juventus dell'Egitto, diciamo furono uccisi. Non si capisce ancora se sarà stato diciamo un agguato o comunque qualcosa provocato volutamente dalle autorità per appunto punire l'attivismo politico delle tifoserie, ma poi man mano questi anni di repressione alle tifoserie, alcuni gruppi si sono sciolti, alcuni che erano proprio diciamo la front line delle proteste di piazza, e allo stesso tempo dovete sapere che qua il calcio è qualcosa che si vive anche per strada, quindi non è solo lo stadio, ma è anche il bar con lo schermo e la sciscia, la pipa d'acqua che si fuma. E a causa della repressione anche questi posti sono stati man mano chiusi nel tempo. È molto più difficile, mentre prima bastava passeggiare, ci si fermava a guardare la partita ovunque, adesso è molto più difficile trovare dei caffè aperti perché sono comunque dei luoghi di ritrovo, e i luoghi di ritrovo in questo momento storico sono molto temuti dal regime, quindi si cerca di ridurli il più possibile. Poi tra l'altro oggi piove, in una giornata veramente strana, sembra Milano, e il traffico è impazzito, e sarà, diciamo, questi sono, noi siamo un'ora avanti, il derby inizia tra un'ora e mezza, quindi c'è la ressa per tornare a casa a vedere la partita, e la città è praticamente bloccata. Sì, quindi, diciamo, insomma, che il Cairo non brilla per fluidità del traffico, no, dai miei ricordi. Per fluidità del traffico, no. Ma oggi più che mai, tra pioggia e il derby, devo dire che è una giornata veramente, veramente particolare. Sicuramente il calcio è uno dei collanti sociali più grossi di questo paese, forse una delle poche cose che collega l'upper class e che costituisce una piccolissima percentuale della popolazione, sì, di 100 milioni di abitanti, e i quartieri popolari. Il problema è che questo collante sociale, che aveva anche dei risvolti politici, ovviamente è stato sgretolato dal fatto che il regime non vuole assolutamente dei collanti sociali, e quindi è andato ad attaccare le tifoserie e i luoghi di ritrovo, oltre a contingentare e aumentare le misure di sicurezza in numerosi stadi, dove sappiamo appunto dopo l'incidente di Port Said alcuni rimasero chiusi anche per diversi anni, chiuse. E quindi insomma è un po' un, come dire, l'altro lato della medaglia di un paese che in questo momento lascia veramente poco spazio anche alla spensieratezza. Grazie mille Laura Capon, lo ricordo, è giornalista freelance, esperta di Egitto. Un grande in bocca al lupo e un buon lavoro Laura, e alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Vedremo quindi gli sviluppi del caso Zaki, dobbiamo attendere ancora 2 settimane mentre gli avvocati cercheranno di mettere le mani su quelli che sono i documenti. Io mi prendo qualche minuto per rispondere a un po' di anche provocatori messaggi degli ascoltatori, ma lo ripeto, se non c'è razzismo, xenofobia e volgarità li leggo tutti volentieri. C'è qualcuno che dice: credo sia evidente la scarsità di rilevanza di cui gode l'Italia all'estero, ricordiamoci dei Marò in India, l'attacco a Gheddafi senza preavviso, il caso Regeni e molto altro. Così Davide, ho troncato il messaggio, ma lo dico, per politica non leggiamo mai i complimenti. Di tutt'altro tenore, un altro messaggio di un ascoltatore, se leggo bene, individuo bene l'icona: se non vi sta bene come si comporta lo Stato egiziano, consiglio un viaggio di massa a manifestare al Cairo. Lamentarsi dall'Italia serve poco. Io, gentile ascoltatore, non sono un attivista, faccio il giornalista, per cui registro quello che accade. Manifesto raramente le mie opinioni, quando le manifesto le distingo e dico: attenzione, questa è una mia personalissima opinione, non mi sto lamentando dell'Italia, ma è evidente che c'è stato un fallimento della diplomazia italiana su un caso di un cittadino italiano. E questo suo distacco, a mio parere, qua lo ribadisco, è molto grave, perché una inefficienza della diplomazia italiana potrebbe capitare a noi tutti, e quindi è giusto sottolinearla. Qua non ci stiamo lamentando, sottolineiamo che il caso Regeni non è stato gestito come doveva essere gestito. Poi di chi siano le colpe non è, come dire, compito di questo programma stabilirle, evidentemente, ma ci sono stati dei problemi a livello di diplomazia e a livello politico, credo che questo sia in dubbio. Allora, c'è qualcun altro che torna sul coronavirus. Vi è stato un caso segnalato dalle autorità egiziane, un caso individuato 10 giorni fa, è stato il primo e per ora unico caso africano, l'uomo è in via di guarigione, questo me lo segnala la redazione, che lo ricordo, mentre vi stiamo parlando è al lavoro anche per continuare a monitorare quel terribile incidente, ancora non si può parlare di attentato, quell'auto che durante le sfilate di carnevale in questo piccolo centro di 7.000 abitanti, Volksmarken, vicino Kassel, avrebbe ferito almeno 15 persone, tra cui anche alcuni bambini, ha investito appunto una sfilata di carnevale. Stiamo monitorando anche le agenzie, portavoce dei vari ministri tedeschi, per capire se vi sarà un pronunciamento, ma naturalmente vi lascio ai colleghi del GR per qualsiasi altro aggiornamento. C'è qualcuno che conosce molto bene il caos del Cairo e dice: il traffico del Cairo fa sembrare Roma Stoccolma. Concordo, credo che uno degli sport più estremi sia tentare di attraversare la strada in una delle strade principali del Cairo, appunto, scusate l'alleggerimento dell'ultimo minuto. L'Egitto non è mai stata una democrazia occidentale, così Filippo scrive. Democrazia occidentale lo mette tra virgolette, chiediamoci perché stimati professori espatriati mandino ingenui studenti a fare gli 007, tornando a quella polemica che vede l'Università di Cambridge e Giulio Regeni, appunto. È interessante questo messaggio, anche se ne abbiamo parlato a lungo, ma Livio, qual è stato il vantaggio delle primavere arabe? Il vantaggio, a vederlo così, a distanza di 9-10 anni, non sono un analista, però una parte di quelle primavere le ho potute fortunatamente vivere e raccontare in prima persona. Molti hanno cambiato il lessico, hanno iniziato a chiamarle autunno arabo, addirittura inverno arabo. Se c'è un filo conduttore, forse possiamo vedere primeggiare un grandissimo laboratorio che è la Tunisia, e poi invece l'aver scoperchiato delle istanze molto spesso anche islamiste, che prima regimi col pugno di ferro invece tenevano bene, bene a bada. Pensate a Derna, sto parlando dell'est della Libia, Derna era un caso eclatante. Nel 2003-2004 sfornava tanti di quegli attacchi attentatori kamikaze che andavano in Iraq da far impallidire la Siria di oggi. Allora, ci sarebbero tanti altri messaggi, su tutti c'è qualcuno, Carlo da Udine: boicottare il turismo italiano in Egitto. Attenzione però, sul boicottaggio, opinione personalissima, andiamo sempre coi piedi di piombo, pensiamo ai tassi di disoccupazione egiziana, pensiamo all'economia egiziana, proviamo a fare delle riflessioni complesse in cui proviamo a distinguere, scusate le ripetizioni, ma tra quelle che sono le responsabilità di chi governa certi paesi e la popolazione, 100 milioni di abitanti, una forbice, come diceva Capon, tra la upper class, tra chi sta bene e chi sta male, gigantesca, e un'economia che ha sofferto tantissimo di un turismo che ultimamente sta riprendendo. Ma ripeto, sono opinioni. Detto ciò, come sempre, una sola parola. Che prelude ai titoli di coda e ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto.